così non posseo, finché non torni il mio sposo e il mio bene dal periglioso incontro, ove lo spinse quinto al cielo.